Parte terza, capitolo 4. Smantellamento di un regno. Ero ritornata a Hong Kong. Ero ritornata attraverso la frontiera con le sue barriere di legno, le sue donne in pantaloni neri cariche di ceste di uova, di polli e di cavoli, i suoi piccoli treni rigurgitanti, i suoi coolies intenti a caricare e a scaricare autocarri, i suoi agenti di polizia dai grossi cinturoni che, con sguardo ermetico e indifferente, guardavano i grigi soldati, i loro fratelli, dall'altra parte del confine. Avevo rivisto la frontiera e notato col cuore stretto ogni implacabile mutamento. Aumentati erano gli steccati, gli sbarramenti di filo spinato, i poliziotti, gli uomini in borghese dagli ampi impermeabili di seta nera che nascondevano le rivoltelle sul fianco. Lunghe erano le code di gente stanca, rassegnata a mantenere una parvenza di ordine dopo le molte ore di attesa. Perquisizioni, urtoni, sventolare di permessi e corruzione lecita, poiché quando il governo coloniale aveva deciso che soltanto ai cinesi che parlavano cantonese fosse concesso il passaggio della frontiera, una straordinaria ordinanza emanata lo stesso giorno aveva decretato che tale passaggio avrebbe dovuto venire permesso a discrezione della polizia. Saggia e piacevole ordinanza. La discrezione era a buon mercato, solo i $50 di Hong Kong per vita. E molte erano le vite che venivano salvate. Un soffio di corruzione benigna può rendere fragrante un intero carico di leggi. Ero ritornata a Hong Kong con le sue vetrine scintillanti e le sue fabbriche che si chiudevano senza alcun preavviso, con le sue enormi e lucenti automobili americane, i suoi pomposi castelletti sulle colline, i suoi campi di profughi. Un solo campo ospitava 6.000 profughi registrati e altri 8.000 clandestini. 20 bambini vi nascevano ogni settimana. Hong Kong, con le sue grandi ditte commerciali e i loro monopoli controllanti i 2/3 della sua superficie e i 3/5 della sua ricchezza, con i suoi ideali di assistenza sociale sempre a corto di fondi, con le sue insufficienti distribuzioni di viveri, le sue cliniche sovraffollate dove i pazienti si mettevano in coda alle 4 di mattina per essere visitati alle 3 del pomeriggio, i suoi quartieri poveri dove la malattia e la criminalità crescevano a un ritmo troppo veloce per le possibilità degli ospedali e delle corti di giustizia, con le sue prigioni, i suoi crudeli verdetti contro i poveri, i suoi traffici fiorenti, tanto numerosi che sembrava impossibile poter farne senza. Traffici. L'ultima raffinatezza in fatto di traffico di donne consisteva nell'esportazione di giovani donne cinesi nelle città del Nord e del Sud America quali spose temporanee di soldati. Poi c'era il traffico dell'oro, operazione che l'abuso aveva ormai portato a considerare quasi illecito. Tanto che molte rispettabili compagnie commerciali ammucchiavano verga su verga nelle loro casseforti. Il traffico privato dei medicinali, che sfruttava un pubblico menomato dall'ignoranza e dalla tubercolosi, il traffico del pesce, degli alloggi, dei visti e dei passaporti. Così come il dolore si annida alle radici di ogni gioia, la corruzione contaminava ogni sforzo sociale eternamente legata all'onesto tentativo come l'ombra di un corpo al sole. Ero ritornata a Hong Kong dal severo nuovo ordine della Cina, passando dalla ricerca del paradiso in terra alla ricerca del denaro, dall'esaltazione del sacrificio alle creature, dal cuore freddo e limitato, dallo sguardo egoista e dalla misurata generosità pubblicitaria, dalla visione al cinismo, dal trionfo, dall'odio e dall'esaltazione alla morte nella vita, dalle epurazioni spietate all'indifferente e fatale negligenza, dall'incubo dell'eresia politica al terrore di perdere l'impiego. Ero ritornata a Hong Kong, armata di incredulità, scossa in tutto fuorché nell'amore, avendo perduto tutto il mio senso dell'umorismo. L'ostello religioso era affollatissimo di missionari. Non mi sembrava possibile che fosse passato soltanto un anno da quando ci avevo abitato. Ci passai una notte, ritrovando Mary Fairfield, di passaggio a Hong Kong prima di lasciare definitivamente l'Asia. Mary Fairfield col suo accento americano, il suo viso sereno, i suoi intricati lavori a maglia, che era ritornata in Cina con i suoi 3 bambini in obbedienza alla volontà di Dio. Nelle case dei ricchi di Hong Kong, la luce cruda del neon si riflette sulle teste impomatate e lucenti come il dorso di un martin pescatore, rimbalza sulle unghie scarlatte e sui denti abbaglianti, si rifrange sugli occhiali scintillanti e sugli orologi d'oro, si spande cremosa sui volti di porcellana delle donne. Noi cinesi amiamo la luce come amiamo il rumore, in grande quantità. Ma nella sala da pranzo, all'interrato dell'ostello, i tubi fluorescenti versavano la loro cruda luce azzurrina su di un'umanità in chiara decadenza fisica, allineata intorno ai 2 stretti tavoli apparecchiati. La ragazza dai gomiti appuntiti alla mia destra aveva il mento flaccido e arrossato e appariva invecchiata anzitempo, e il collo rugoso e avvizzito di coloro che mi sedevano di fronte urtava il mio sguardo abituato agli alti colletti cinesi e alle giacche abbottonate dei giovani comunisti. Alcune spalle erano coperte di forfora. All'altro tavolo una zitella metodista in rosso scarlatto chiacchierava senza posa, fermandosi appena per respirare per paura di perdere il suo turno. Non poteva ormai far altro che parlare, e la sua vita si era ridotta a un torrente di parole senza scopo perché non le era più permesso di ritornare in Cina. Mentre sorbivo la minestra bianca e spessa, cominciai a notare, dietro allo schermo di bruttezza, gli occhi tristi di coloro che sedevano muti sotto la luce al neon, gente che soffriva perché le sue radici erano state strappate. Intanto la metodista, vestita di rosso, continuava a parlare, elencando le cattive notizie giunte dalla Cina e facendo fosche predizioni di disastri immediati, come una donna che infili le sue perle su un filo di amarezza. Il suo viso, ocraceo e avvizzito, e il movimento continuo della sua lingua dominavano la tavola, ma il suo cuore era radicato profondamente in quella Cina, in cui non sarebbe mai più ritornata. Missionari della Cina, più grandi nell'ora della prova che non nei giorni della forza, alcuni amareggiati, molti addolorati, quasi tutti senza lamento. Dietro quei volti, garruli o pensierosi, c'era l'apprensione di una vita ristretta, di un futuro privato della vastità e dell'immensa vitalità della Cina, di un mondo piccolo e soffocante, ora che la Cina, la loro Cina, non era più loro. Dopo cena, sedemmo nel salotto dalle cui finestre si vedeva il porto, soffuso di un caldo color arancione e punteggiato di navi. Un giovane biondo sfogliava un giornale inglese sotto la lampada. Il sussurro di Mary Fairfield mi giunse all'orecchio. È stato 59 giorni in prigione in Cina, sospetto di spionaggio. La sua zona era molto difficile. Va a fortuna. Certe zone sono peggiori di altre. Ora torna negli Stati Uniti, dove ha già fatto 1 anno e 1 giorno di prigione. È obiettore di coscienza. Se ci sarà un'altra guerra lo ficcheranno dentro di nuovo perché ha l'età della leva. La metodista in rosso sedeva su un divano con un grosso uomo calvo dai lunghi denti gialli. Le missioni interne della Cina se ne vanno tutte. Dopo tutto quello che abbiamo fatto per il paese, questa è la sua gratitudine. I suoi occhi irrequieti, simili a frecce sospese in aria, in attesa del punto su cui posarsi, mi lanciarono uno sguardo scrutatore. Quella era la dottoressa Rossa, avrebbe forse detto più tardi. Avete saputo della sua avventura con un giornalista inglese? Ella raccoglieva informazioni e non ne teneva nessuna per sé. Mary Fairfield non mi giudicava. La sua dolcezza e la sua tolleranza mi riempivano di vergogna. Sono contenta di essere tornata in Cina perché ora comincio a capire molte cose. perché il vostro popolo non ci ama, la nostra presunzione, la nostra arroganza. Avremmo dovuto andarcene anni fa. Ma per noi occidentali è sempre difficile lasciare la presa. L'avidità di possesso è il nostro punto debole. Prese a lavorare a maglia. Sono stata contenta di dovermene andare. Eravamo un peso per i nostri amici cinesi, perché il solo fatto di frequentarci li rendeva sospetti, e tuttavia non mi sono mai sentita così vicina, così unita al vostro popolo. Erano tutti molto gentili. Ora che non godevamo più di alcun privilegio, non ci volevano male. Ma eravamo imperialisti, aggressori e spie, e così abbiamo dovuto andarcene. Ed è stato un bene. I cattolici non riusciranno a tener duro, disse la metodista in rosso. Questo è soltanto il principio. Le cose andranno sempre peggio. E annuì, vigorosamente, con triste compiacimento. In quella stanza era riunito tutto ciò che rimaneva di un intero secolo di lavoro missionario in Cina, di un secolo di dedizione, di sacrificio e di carità. Per la gloria del loro Dio, in altruistico zelo, uomini e donne di 29 denominazioni erano andate a battezzare i pagani, ad insegnare la loro varietà della verità unica, a curare gli ammalati, a nutrire gli affamati, ad adempiere la loro missione e la volontà del loro Dio. Giorni di forza, splendidi, luminosi giorni di dedizione e di forza. In quella stanza erano riuniti coloro che avevano demolito le nostre tradizioni, spezzato il nostro egoismo, risvegliato la nostra coscienza sociale, che ci avevano armati di ideali, che avevano strappato i nostri dotti al loro poetico torpore, i nostri bambini ammalati all'etamaio pubblico, che avevano costruito le nostre università, i nostri ospedali e il nostro puritanesimo. Anch'essi avevano creato una Cina nuova. Anch'essi avevano contribuito a crearci, sebbene ora li cacciassimo fuori quali strumenti dell'aggressione straniera, ci appartenevamo a vicenda. In mezzo a quei missionari, mentre ascoltavo Mary Fairfield con un orecchio e la metodista in rosso con l'altro, mi parve di comprendere l'entità dello sforzo missionario in Cina e mi vergognai della mia gente. Non mi vergognavo perché i missionari erano stati espulsi. Forse era tempo che se ne andassero, ma per il modo in cui erano stati espulsi. Insulti, il rancore, l'odio, le umiliazioni e la bramosia di distruggere, lo scatenarsi del terrore, del sospetto e della denuncia come un tifone sulla Cina. Era una violenza indegna di un grande popolo. Vedremo ora se il seme del cristianesimo che abbiamo piantato germoglierà senza più aiuti nel suolo cinese. Questa è la prova. La grande sfida alla vitalità della religione. Le vie di Dio non sono le nostre, e forse questo sarà un bene per noi alla fine. Ci eravamo adagiati troppo comodamente con i nostri servi e i nostri privilegi, allontanandoci dal popolo cinese. Abbiamo giocherellato col potere, specialmente noi metodisti che godevamo di tanta influenza con l'ultimo governo. La Chiesa cinese deve ora continuare il cristianesimo. Io ho fede in Dio e nella vostra gente. Così, Mary Fairfield, creatura di Dio. La donna in rosso continuava a parlare. Era un ottimo cristiano, tanto che pensavamo a lui come al nostro prossimo vescovo cinese. Era stato mandato 2 volte negli Stati Uniti e sembrava entusiasta del riarmement moral, proprio come uno di noi, e adesso ci si è rivoltato contro e ci ha denunciati tutti. Ero ritornata per cercarmi un impiego e l'avevo trovato. Copiavo a macchina le vecchie carte degli schedari. Una segretaria sarebbe stata più adatta, ma il bilancio della sezione universitaria prevedeva lo stipendio di un medico e non quello di una segretaria. Un medico fa miglior figura nella fotografia annuale del personale e il suo stipendio è di pochissimo superiore a quello di una segretaria. Le carte, racchiuse in polverosi schedari, datavano di 2 anni addietro ed erano coperte della minuta e indecifrabile calligrafia caratteristica dei medici. dovevano essere battute a macchina e riordinate. Avevo bisogno di questa pausa, di questo intervallo di movimento meccanico che lasciava la mente libera di scalare montagne e rocce scoscese, di tener fronte al continuo attacco delle parole, di venir maciullata da frasi che ne attraversavano la percezione come massi di pietra scagliati attraverso l'aria da una valanga. Avevo bisogno di essere portata alla crudeltà estrema dell'indecisione, di riassaporare ogni boccone dell'agonia che era stata mia. E mentre le mie dita copiavano, io analizzavo me stessa. Sere e nottate mi vedevano vagare per miglia e miglia di strade, incurante del tempo e della stanchezza, per cercare, scoprire, imparare, imparare quello che non avrei mai saputo. Attendevo Mark, sapendo che sarebbe ritornato, sapendo che i nostri giorni erano irrimediabilmente contati, che il nostro amore, per quanto profondo e ardente, ci sarebbe stato pesato al centesimo di grammo. Ero grata al mio lavoro, ma ora avrei dovuto trovarmi un alloggio. May, con la spensieratezza propria ai bambini, era stata felice nella casa di Robert e Nora Hung e non aveva sofferto per la mia assenza, ma ora desiderava stare con sua madre. Gli Hung avevano tanti amici da ospitare che non c'era proprio posto per me. La Young Women Christian Association cinese era affollata e i bambini non vi erano ammessi. L'istituto Helena May e l'istituzione cinese europea erano riservati ai bianchi, tutto il resto era troppo costoso. L'affitto di una cameretta avrebbe assorbito quasi tutto il mio stipendio. Ma perché non venite a stare con noi? Mi disse James Manton, che incontrai per caso nella sua piccola Rover rossa sotto gli alberi fioriti che spandevano la loro luminaria arancione e scarlatta lungo il viale dell'università. Oh, non potrei. Ma certo che potete. Abbiamo una stanza per gli ospiti. Venite almeno per qualche settimana. Siete dimagrite, avete l'aria stanca. Quella sera cenai con James e Fiona. Le luci velate della sala da pranzo con le loro aureole sul muro. Le poltroncine rosse e verdi, la sedia ricoperta da una stoffa a righe su cui Mark si era seduto, attraversando i tappeti carichi di fiori per venire da me, sorridente e spontaneo. Mentre sorseggiavo il caffè, trattenendo a stento le lacrime, sentivo di appartenere tutta al sorridente sconosciuto di quella sera. Quando potrete venire con me? Mi chiese Fiona, cercando di strappare il suo fazzoletto dai dentini di loto. Un Basenji che amava giocare come un gattino, con zampe morbide come gigli e più agili delle mani dell'uomo. Oh, Fiona! Tetty Bogo, sdraiato sul divano nella solita indecente posizione indicante una felice digestione, aprì un occhio e mi guardò. Saremo felici di avervi. Abbiamo sempre desiderato di avere più amici cinesi, insistette Fiona. In un attimo rividi Adeline Palmer Jones e il suo sguardo scostante. Sentii su di me le mani avide e brutali di William Monk, il profilo sprezzante di Ernest Watts si materializzò davanti ai miei occhi. Dovevo mettere in guardia Fiona. Credete davvero che possa venire Fiona? Ma certo, Suyen. Sono euroasiatica, Fiona. Il mio tono era tragico. Tetty Bogo chiuse entrambi gli occhi. Oh, cielo! Esclamò Fiona. Vedete bene che ho ragione, mormorai già senza più speranza. Suyen, che mai può importare se siete cinese, inglese o euroasiatica? Disse Fiona in tono di rimprovero. Ho sempre saputo che eravate euroasiatica. Me l'avete detto voi, non ricordate? Ma che differenza può fare? Hong Kong è piena di euroasiatici. Sono i nostri migliori cittadini. James ed io consideriamo le persone per quello che sono. Mi meraviglio di voi, Suyen. Scoppiai in lacrime. Ero molto stanca. Siete sconvolta e sfinita e dite delle sciocchezze. Come avete potuto lasciarvi influenzare dalle meschinità dei meschini che cercano di giustificare il loro complesso di inferiorità? James ed io siamo felici all'idea di avervi con noi. A che serve appartenere a una democrazia se non si considerano gli individui come tali? E così fu. Con James e Fiona, che l'ultimo brandello di ipersensibilità razziale scomparve in me. Mi curarono, mi nutrirono, mi portarono fuori con loro e mi fecero ridere. Imparai nuovamente a ridere delle meschine crudeltà che i piccoli esseri sadici commettono, più maligne e dolorose dei grandi peccati che esigono sempre una certa dose di coraggio. Con loro imparai a credere nella libertà dello spirito. E compresi che quello che viene chiamato democrazia è una cosa possibile, anche se non tutti sono democratici in una democrazia. Con James e Fiona ripresi coraggio per il tempo del raccolto e quando giunse il momento, essi mi aiutarono a mietere i folti covoni della mia gioia e del mio dolore. Me ed io avremmo dovuto rimanere con loro per qualche settimana. Vi restammo 8 mesi. Maya ci preoccupava. La malattia che attaccava la sua carne la riempiva di una tormentosa agitazione. Aveva vissuto dolcemente, reggendo la vita come un sogno ad occhi aperti, e adesso si ribellava alla disciplina del letto. 2 volte era fuggita dalla clinica. Ann Richards ed io andammo alla sua ricerca nella macchina di Fiona e la trovammo che camminava sulla riva del mare, a parecchie miglia di distanza, lei che mai prima di allora aveva passeggiato per suo piacere. Man mano che sentiva la vita abbandonarla, si aggrappava sempre più agli alberi, dalle profonde radici, al movimento delle nuvole e degli astri, alla solennità delle montagne. Lei che aveva sempre avuto la passione prettamente cinese per il piccolo dettaglio, per l'armonia da filigrana delle foglie e dei petali, tendeva a orizzonti più vasti e più vaghi. Ora che i confini della sua vita si estendevano nell'oscurità della polvere e dell'oblio. Con occhi brillanti e dilatati fissava la linea oscura del tramonto che mai prima d'ora l'aveva attratta, e nel tentativo di afferrare l'insostanziale, le sue labbra e le sue dita rivelavano l'impazienza dell'agonia. Un giorno la trovai seduta al mio tavolo da lavoro. Era fuggita di nuovo dal letto. E come se fosse la cosa più naturale del mondo, prese subito a parlarmi dell'albero. Mentre venivo qui, mi è accaduta una cosa stranissima, mi disse. A metà strada mi sono fermata sotto un albero per riposarmi, guardando il suo tronco argenteo e diritto, cerchiato e macchiato dalle allegre fantasie di gioventù, le sue foglie spruzzate di bianco. Gli uccelli sui rami, pronti a lanciarsi nell'ebbrezza del volo, con l'ombra fresca e verde che mi copriva e i raggi obliqui del sole sulle mie mani, sono improvvisamente diventata albero io stessa. Insidiosa e profonda la transostanziazione, vittima incantata, rimasi immobile. Il cuore divenuto quello dell'albero, mentre nelle mie vene scorreva come fuoco dolce un forte succo verde. Conoscevo il nome segreto dell'albero, i suoi anni di vita, sentivo le radici fitte e senza pensieri affondare nella terra viva, farsi strada fra il terriccio e le pietre avide di acqua. Udivo spuntare ogni foglia. Piccolo pennone, spiegantesi alla ricerca di quell'altra pioggia che è la luce. Distendevo i miei rami con gesto scherzoso e attento, riempiendo il vuoto col fiorire della mia vita. Conobbi infine il raccoglimento dell'albero, la pace finalmente conquistata, la sua contemplazione del giorno, la sua staccata sollecitudine. Per l'ombra verde che si arriccia intorno al mio corpo. Sedevo immobile, albero che si crogiolava al sole e ogni precedente consapevolezza non era più che un sogno ricordato a metà. D'un tratto sentii uno strappo, tossii e la visione piombò fra la sostanza dell'albero e me stessa. Io ero di nuovo io e l'albero mi sovrastava, verde e spruzzato di fiocchi di sole, remoto, sconosciuto. E poi venni qui. Maya, le dissi, tu ed io siamo sempre state taoiste e un po' pazze, ma ora tu mi hai battuto perché sei diventata immortale. E subito mi morsi le labbra per aver detto quello che assai presto sarebbe stato vero. Maya sorrise, di un sorriso glorioso ed esultante. Chiamala come vuoi. La morte non è che un incidente, quello che importa è la vita. Amo tanto la vita che non me ne importa nulla di morire. E se ne andò, canticchiando una frivola canzonetta vecchia di 10 secoli. I cuori senza amore sono allegri e forti, ma colei che ama deve gemere. Il dolore che un tempo non era che una pagliuzza è ora profondo miglia e miglia. Lo spazio limita anche le più remote profondità della terra e l'immensa volta del cielo e le stagioni cambiano, ma il mio amore non ha limiti e non cambia. Maya era un poco pazza. In poche settimane tutto fu finito. Ella non aveva alcuna resistenza alla tubercolosi. Divenuta cieca, delirava dolcemente per tutto il giorno e morì una notte. Quando non c'era nessuno, le pupille enormi, gli zigomi come d'avorio. Il male l'aveva presa tutta, dai polmoni all'intestino e al cervello. Aveva noduli, persino negli occhi.